Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Focus Economia con Deborah Rosciani. Una buona serata a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Focus Economia, il punto della giornata economico-finanziaria. Come vi dicevo questa mattina, appunto a due di denari, questa sera tocca a me condurre il programma che nel corso della serata vi racconta quali sono stati i principali temi economico-finanziari. Allora intanto, visto che altrimenti poi rischio di dimenticarmi di dirlo in questa primissima parte, molti ascoltatori si indispettiscono, la borsa va molto bene oggi, quindi c'è un parziale recupero delle perdite di ieri. Milano più 1,85%, Parigi più 2,24%, Francoforte più 1,7%, Londra più 1,49%. I contagi a livello mondiale sono sempre molto alti, lo sapete, siamo come al solito in trepidante attesa per conoscere il numero dei contagi odierni. Per oggi il mercato pare nuovamente riuscire a mettere un pochino da parte queste preoccupazioni. Si guarda alle trimestrali, oggi per esempio da questa mattina il mercato francese ha guardato molto positivamente ai dati di LVMH, il colosso mondiale del lusso, e infatti i dati di LVMH hanno poi trainato tutto il settore in tutta Europa. Sono tornati ad essere acquistati titoli industriali, titoli petroliferi, vedo che a Piazza Affari una giornata piuttosto buona. Il tema dell'aumento di capitale fa volare Biperbanca oggi, che segna più 8%, i dati sulle matricolazioni auto in Europa invece fanno volare i titoli Fiat Chrysler più 4,68%. Però sui temi di borsa, come sempre, andremo nella seconda parte della trasmissione, nella seconda parte di questa prima ora. Lo spread BTP e Bund a 126 punti era arrivato ai suoi minimi storici negli ultimi giorni, ieri improvvisamente era tornato a 130, oggi ridimensiona un po' la sua galoppata di ieri. Wall Street in questo momento pure positiva, più 0,9% per il Dow Jones e più 0,55% per lo Standard & Poor's. Di borsa parleremo dopo, vi dicevo i temi che approfondiremo questa sera, faremo un punto in questa giornata delicatissima su tutto quello che è tutta quella che è la gamma delle intenzioni del Consiglio dei Ministri che si riunirà domani. Si deve dare il via libera naturalmente all'impianto generale della prossima manovra di bilancio, ma sappiamo anche che è in ballo un DPCM nuovo del Premier Conte sulle nuove misure restrittive che dovrebbero essere adottate per arginare i contagi nel nostro paese. Oggi veramente è stata un fiorire di indiscrezioni di ogni ordine e grado. Si parla del nuovo coprifuoco che potrebbe essere in vigore dalle 22 su base regionale, chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici e cinema. Per quello che sappiamo, le regioni che sono in una condizione più delicata, sappiamo quello che ha deciso Vincenzo De Luca in Campania, siamo anche in attesa di capire cosa potrà essere stabilito in Lombardia. Noi viviamo qua, una regione dalla situazione piuttosto seria, ma pare che le misure che potranno essere prese nelle prossime ore siano più blande del previsto, ecco, passatemi questo termine, ma non sappiamo ancora molto, vedremo più tardi il numero dei contagi, cosa ci racconteranno. Per quello che riguarda appunto invece i temi che approfondiremo questa sera, parleremo, lo sentiremo tra poco, della chiusura oggi a Roma di un'iniziativa che è stata organizzata da Talent Garden, che per chi non la conoscesse è una grande piattaforma innanzitutto di networking e poi anche di formazione per i nuovi talenti digitali. In realtà fanno tantissime cose, è un'iniziativa nata qualche anno fa a Milano che poi è stata studiata in tutta Europa e portata in tutta Europa. Beh, oggi gli organizzatori appunto di Talent Garden, i promotori di Talent Garden, hanno organizzato a Roma Next Generation, The Italian Innovation Society, in sostanza una 2 giorni dedicata ai temi dell'innovazione, della digitalizzazione, che ha visto un susseguirsi dei vari esponenti del governo, appunto dire da loro, ma nella sostanza si sono voluti mettere sul piatto tutti quei progetti che dovrebbero essere portati avanti utilizzando le risorse che arriveranno nei prossimi mesi del Recovery Fund. Si punta in particolar modo sull'educazione, si punta sul food, ma anche sul tech food, quindi su tutte le modalità innovative di produrre e commercializzare anche i prodotti del Made in Italy. Si parla anche, tra le iniziative che sono state proposte, di valorizzare con la digitalizzazione le nostre bellezze turistiche, architettoniche, e insomma ne sentiremo qualche dettaglio in più rispetto a quello che è stato detto più tardi. Parleremo poi di donne, perché c'è uno studio della Bocconi che è stato diffuso proprio oggi, che ci racconta come le donne siano molto più prudenti nell'affrontare il Covid, nel mettere in campo tutte le misure precauzionali per difendersi dal contagio. Ma perché oggi ne parliamo? Focus Economia non è una trasmissione di sanità, ma perché il tema della donna sta tornando proprio al centro del dibattito in questi ultimi giorni. Anche Mattarella, il Presidente della Repubblica, ha detto è inaccettabile che nel nostro paese meno del 50% della popolazione che lavora sia appunto rappresentata dall'universo femminile, universo femminile che ha pagato duramente tutto il lockdown della scorsa primavera, incaricandosi della gestione delle questioni familiari. Tutto il welfare della famiglia è ricaduto sulle spalle della donna, lo sappiamo, adesso non è per fare piaggeria in questa sede, non ci interessa, ma insomma ce lo raccontano studi su studi, per cui anche questo esame ci sembrava interessante oggi da proporvi come tema di confronto questa sera per Focus. Se volete intervenire in diretta, non potete farlo naturalmente chiamandoci, ma potete scriverci al 349-238-6666. Io, se riesco, i vostri messaggi li leggo molto volentieri. Adesso però direi di andare subito alle notizie in breve di questa serata. Le materie prime in questa giornata: l'oro a $1,906 l'oncia, il petrolio un po' in calo rispetto a ieri, $40,47 al barile. Allora, l'inflazione è sempre più in giù nella zona euro, a settembre stimata -0,3%, una bella patata bollente per la Banca Centrale Europea. Il dato è stato diffuso oggi da Eurostat, l'istituto di statistica europeo, che conferma la stima flash che era stata rilasciata il 2 ottobre. Un anno fa l'inflazione era lo 0,8%. Anche nella Unione Europea il tasso di settembre è a 0,3%, giù dallo 0,4% di agosto. Il tasso più basso si registra in Grecia, -2,3%, Cipro -1,9%, Estonia -1,3%, in Italia siamo a -1%. Il dato più alto invece si registra in Polonia, +3,8% per la variazione appunto dei prezzi al consumo, Ungheria +3,4%, e se si guarda la sola zona euro, i più alti sono stati in Slovacchia +1,4%, Austria +1,3%, Olanda in rialzo di un punto. E prosegue l'impatto significativo del coronavirus sul commercio estero. Ad agosto nella zona euro si è registrato un calo del 12,2% rispetto ad agosto 2019. L'import è sceso del 13,5%. Il commercio dentro l'area euro è sceso a 129,2 miliardi di euro, un calo del 4,6% rispetto all'agosto dello scorso anno. Avete sentito anche nel pezzo del nostro giornale radio i dati sulle immatricolazioni auto in Europa in settembre, e allora li ribadiamo perché abbiamo un segno più dopo 8 mesi consecutivi di calo, e cali che sono stati anche significativi, importanti a due cifre. Il mercato dell'auto nell'Europa occidentale registra a settembre il primo segno positivo dell'anno. Lo dice l'ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei. Le immatricolazioni in questo mese sono state 1.300.000, con un incremento dell'1,1% sullo stesso mese del 2019. Da inizio anno complessivamente sono state vendute 8.567.920 auto, il 29,3% ancora in meno rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Cosa ha fatto Fiat Chrysler? In questo periodo ha immatricolato a settembre 77.807 auto, l'11,8% in più rispetto allo stesso mese di un anno fa. La quota di mercato è aumentata al 6% dal 5,4% della precedente rilevazione. Sentiamo un po' cosa succede sul fronte Brexit oggi. Allora, Londra si dice delusa dalle conclusioni del vertice europeo che ha dedicato la prima giornata dei lavori appunto alla Brexit e voterà su come proseguire le discussioni. Lo ha detto il negoziatore britannico David Frost su Twitter, scrivendo di essere sorpreso che l'Unione Europea non si sia impegnata a lavorare più intensamente su un accordo, che i 27 è sorpreso del fatto che i 27 chiedono ancora sforzi a Londra. Il Regno Unito deve prepararsi ad un no deal, almeno che l'Europa non cambi radicalmente la sua posizione sugli accordi di Brexit. Questa è ancora una volta la posizione espressa dal premier britannico Boris Johnson. L'Unione Europea continua a lavorare per un accordo, ma non a qualsiasi costo. Come programmato, il nostro team negoziale andrà a Londra la settimana prossima per intensificare questi negoziati. Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Ieri, infine, abbiamo adottato conclusioni sulla Brexit, siamo uniti, determinati a rendere possibile un accordo. Barnier andrà a Londra per questo, ma non vogliamo un'intesa a qualsiasi costo. E quanto abbiamo scritto ieri resta valido oggi. Questa invece è stata la posizione del presidente del Consiglio europeo Charles Michel al termine del vertice ad una domanda sulle dichiarazioni del premier Johnson, per l'appunto. Michel ha ribadito: l'accordo di recesso deve essere attuato pienamente. Le parole del nostro premier Conte al Consiglio europeo. Adesso che sta tornando la fase acuta della pandemia, ci siamo detti che sarebbe utile avere delle videoconferenze periodiche in modo da parlare di tutti i vari aspetti: test, controlli, misure restrittive. Così Conte, arrivando al vertice dei leader dell'Unione europea a Bruxelles. Lo sentiamo. E ieri sera poi, sino a sera tardi, abbiamo discusso anche dell'attuale pandemia. È stata un'occasione utile per scambiare informazioni, per rinnovare l'opportunità di avere comunque un coordinamento. Cioè, è chiaro che bisogna rispettare i processi decisionali nazionali, però ci siamo anche detti che può essere utile, adesso che sta ritornando la fase acuta della pandemia, un po' tutti i paesi europei stanno soffrendo, che stiamo soffrendo, sarebbe utile avere delle videoconferenze periodiche in modo da parlare di tutti gli aspetti e aggiornarci. Il problema della ricerca e dei vaccini, il problema delle terapie, il problema della resilienza dei sistemi sanitari nazionali, test, controlli, misure restrittive che ovviamente sono ormai applicate in quasi tutti gli stati membri. Ecco, su questo torneremo quindi ragionevolmente a confrontarci con una scadenza settimanale o comunque periodica. Adesso invece entriamo nella sessione finale, sarà prevalentemente dedicata alla cooperazione tra Unione Europea e Africa, continente africano, in particolare Unione Africana, e probabilmente ci sarà anche l'occasione per discutere di qualche altro tema che è fuori dall'agenda formale di questo meeting. È stato diffuso oggi il bollettino mensile della Banca d'Italia, qualche dato tra i più rilevanti che sono emersi. Allora, la Banca d'Italia prevede un balzo del PIL italiano nel terzo trimestre del 12%, quindi superiore alle stime grazie al traino dell'industria, e noi lo speriamo veramente tanto anche alla luce di quello che sta succedendo di nuovo in questi giorni. Chissà se queste stime potranno essere confermate. Il ritorno alla crescita, dice Via Nazionale, è stato verosimilmente più sostenuto di quanto prefigurato in luglio, anche grazie alle misure di stimolo. L'incremento del prodotto potrebbe essere stato intorno al 12%, spinto soprattutto dal forte recupero dell'industria. Restano più incerte le prospettive dei servizi in ripresa, anche per effetto del buon andamento dei flussi turistici domestici, ma ancora su livelli di attività molto contenuti. Banca d'Italia stima anche che nel terzo trimestre la produzione industriale sia cresciuta di circa il 30%, ritornando al livello precedente l'inizio della pandemia. Un giudizio anche sulle misure espansive varate dal governo italiano contro la crisi da Covid, misure che forniscono all'economia una spinta macroeconomica considerevole, e per ottenerne pieni benefici è essenziale adoperarsi per accelerare i tempi di realizzazione e assicurare la qualità degli interventi. Questo è quanto chiede all'esecutivo la Banca d'Italia nel suo bollettino economico. C'è poi un commento sugli ammortizzatori sociali che ne è stato fatto tanto ricorso, lo sappiamo bene, attenuano l'impatto sull'occupazione della crisi. C'è stata poi oggi un'intervista del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, rilasciata a Bloomberg TV. E ha confermato Visco che il risultato del PIL italiano nel terzo trimestre sarà superiore alle stime, ma ha anche detto ci vorranno almeno un paio d'anni perché l'economia nel suo complesso in Italia ritorni ai livelli pre-Covid, sottolineando la difficoltà in ogni caso, e qui lo sottoscriviamo anche noi, di realizzare delle previsioni. Per quello che riguarda l'inflazione negativa a settembre, avete sentito prima i dati di Eurostat che abbiamo appunto comunicato, anche per quello che riguarda l'Italia abbiamo in settembre un dato negativo, c'è però da fare un'osservazione a parte rispetto all'andamento del prezzo del cosiddetto carrello della spesa, che a settembre invece è in totale controtendenza, c'è un più 1%. Il carrello della spesa, che include i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, prezzi che accelerano lievemente, passando dal precedente 0,9% a più 1. L'Istat appunto ha diffuso la stima definitiva dei prezzi al consumo per lo scorso mese di settembre ed è stata rivista la stima preliminare, che invece dava un dato complessivo al più 1,2%. Nei primi 8 mesi di quest'anno la produzione metalmeccanica ha perso il 19,8% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Non si salva l'export, ancora di salvezza nelle precedenti crisi, che segna complessivamente un meno 16,7% nei primi 7 mesi rispetto ad un anno fa. Sono i dati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica, giunta alla 155esima edizione. Si sottolinea in questa indagine che, a fronte dell'attività produttiva italiana nel complesso diminuita di oltre il 15% fra gennaio ed agosto, le aziende metalmeccaniche hanno subito in misura maggiore il lockdown. Questa è la realtà con cui oggi tutti si devono confrontare e nella quale tutto deve essere calato, compreso il contratto nazionale. Se ne sta discutendo, non si trova un accordo con i sindacati, e quindi questo è quanto sottolinea il direttore generale dell'associazione, Stefano Franchi. Siamo dentro una crisi senza precedenti. Neanche nelle più gravi crisi del passato la produzione metalmeccanica ha chiuso un anno con una perdita a doppia cifra. Ormai è certo che accadrà quest'anno, ha detto il vicepresidente dell'associazione Fabio Astori, commentando sempre i dati dell'indagine congiunturale. La recessione è globale, questo è un grande male per chi, come le aziende metalmeccaniche, hanno appunto una vocazione fortemente esportatrice. Intanto mi stanno dicendo che sono arrivati appunto i dati sui contagi di oggi, e ve li dico in diretta: raggiungono quota 10.000 i nuovi contagi per il Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Si sono registrati 10.010 casi, per la precisione. I tamponi sono stati, credo, un po' meno di ieri, 150.377. I decessi sono stati 55, sempre tanti, sempre troppi, per fortuna in calo rispetto a ieri, quando ne abbiamo registrati 83. E quindi nelle ultime 24 ore in Italia 10.010 casi di contagio da Covid. Sarà un dato ovviamente che dovrà considerare il governo alle prese con le nuove misure di contenimento. Vedremo quali saranno quelle che verranno prese con nuovo, possibilmente, DPCM, e poi vedremo appunto le regioni che cosa ci raccontano. Vedo il dato isolato del Lazio: 795 casi, 5 decessi e 78 guariti. Siamo ad un livello arancione, dicono le autorità, nella fattispecie l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato. Adesso vediamo appunto se avremo a breve anche il dato, che noi guardiamo pure con forte preoccupazione, dalla Lombardia, altre regioni che guardiamo con preoccupazione, il Piemonte, il Veneto, la Toscana e la Campania. Al momento abbiamo il dato complessivo di questa giornata. Direi che possiamo andare alla prima pausa di questa sera. Intanto Milano, per quello che riguarda la borsa, ancora un quarto d'ora prima della chiusura definitiva, più un 73% sulle FTSE MIB. A tra poco. Ora, È ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite su aruba.it. Focus Economia. Ed eccoci ritrovati in diretta. Saluto il nostro prossimo ospite, che è Lorenzo Maternini, country manager per l'Italia di Talent Garden. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, intanto volevo ricordare agli ascoltatori, per chi non conoscesse questa realtà, che cos'è Talent Garden. Voi siete nati come piattaforma, anche come luogo per fare networking qualche anno fa, un modello nato a Milano, poi sviluppato in tutta Europa. Oggi siete diventati un punto di riferimento per tutti coloro che, oltre a fare networking, hanno bisogno di come dicevo prima un riferimento anche per fare formazione nell'ambito dell'innovazione digitale. E quindi avete ideato questa due giorni che si chiama Next Generation the Italian Innovation Society. È un grande evento dell'innovazione in Italia, organizzato per naturalmente cercare di formulare, mettere sulla bilancia tutte le idee possibili per poter utilizzare al meglio tutte le risorse che arriveranno prossimamente con il Recovery Fund, anche se questo è un altro grande punto interrogativo, perché effettivamente una data precisa non ce l'abbiamo. Sicuramente abbiamo una grandissima opportunità. Maternini, cosa è successo in questi due giorni? In realtà questa due giornate di evento è stata la conclusione di un percorso che è cominciato due mesi fa, quando abbiamo deciso di fare una chiamata alle armi a tutti gli innovatori dell'ecosistema digitale italiano, chiedendo loro appunto di mettersi in gioco, perché la cosa importante, soprattutto quando si vogliono dare degli indirizzi al governo, è interpellare quelli che tutti i giorni fanno l'innovazione digitale, dalle grandi realtà alle piccolissime. Ecco, noi abbiamo chiesto loro di lavorare, di elaborare delle proposte, e abbiamo in questi due giorni sintetizzato dei macro punti che in realtà non fanno altro che emergere le progettualità che già esistono. L'Italia è piena di progettualità incredibili, virtuose sull'innovazione digitale. Serviva oggi dare al governo questo punto di vista. Razionale, anche perché poi le iniziative appunto possibili sono tante, ma non bisogna neanche disperdere mille rivoli, immagino, le risorse di cui parlavo prima. Assolutamente, bisogna accelerare, bisogna incentivare, non bisogna inventare nulla di nuovo. Allora, andiamo a raccontarle quelle che sono le proposte che avete messo sul piatto di tutti gli interlocutori che si sono avvicendati in questi due giorni. Avete avuto in rassegna tutte le massime personalità del governo, ma non solo, anche profili del mondo finanziario, c'era anche Cassa Depositi e Prestiti, insomma tutte le personalità che in questo momento hanno il titolo chiaramente per parlare di questi argomenti, evidentemente. Che cosa avete proposto? Noi abbiamo proposto innanzitutto di lavorare su tre temi principali. Il primo è il tema della cultura, come valorizzare il patrimonio culturale italiano grazie a digitale tecnologia. Il secondo è il tema della filiera agroalimentare. Oggi il food tech deve essere la nuova grande bandiera italiana, ma calata in un contesto di tecnologia digitale. E il terzo, non da ultimo, è un tema imprescindibile, l'education. Come possiamo oggi ripensare un nuovo modello di education, anche post esperienza Covid, un nuovo modello di education che sia capace di utilizzare le tecnologie per migliorare l'esperienza degli studenti. Ecco, su queste tre tematiche abbiamo elaborato 10 punti, che ripeto, sono 10 punti emersi da progettualità già esistenti, che mirano a utilizzare i dati, mettere i dati in rete, lavorare sul distanziamento sul distanziamento geografico, quindi ridurre quello che è il gap tra le grandi città e le scuole di provincia. Insomma, abbiamo creato dei punti su cose molto concrete che si possono risolvere con progetti che già esistono da valorizzare e incentivare. Allora, dicevo prima delle personalità di governo che hanno preso parte all'evento di Talent Garden, e vi faccio sentire che cosa ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Dal punto di vista industriale, una visione pluriennale del pacchetto 4.0 che deve essere implementato, rafforzato, e che deve dare certezza agli imprenditori di esserci anno dopo anno. Non possiamo arrivare al 31 dicembre, o anzi al 30 dicembre, con la fiducia sul maxi emendamento di conversione della legge di bilancio per sapere se dal 1 gennaio sarà confermato il 4.0. Questo è intollerabile, non deve essere più così. ma ci deve essere un percorso, oltre che chiaro e certo, anche di grande incisività rispetto alla necessità di aiutare la piccola e la microimpresa, oltre che la grande, a poter accedere ai servizi di innovazione, a poter accedere all'innovazione, alla digitalizzazione. Lorenzo Maternini, abbiamo sentito le dichiarazioni di Patuanelli, le idee molto chiare sul tema del 4.0, che è stato il grande progetto degli ultimi anni, che ha consentito la conversione digitale di tante aziende che da questo punto di vista erano rimaste un po' indietro, una grande rivoluzione che per la verità ha spaventato anche molti, in primo luogo una parte del settore sindacale, altri imprenditori si sono avventurati con un po' più di difficoltà, ma è stato un passo che ha consentito appunto di dare slancio all'impresa italiana, soprattutto la piccola, in questi ultimi anni. I nostri governi però non sempre brillano per continuità di idee. Chiaramente i governi passano e dall'uno all'altro generalmente si tende a smantellare sempre tutto quello che hanno fatto i governi precedenti. Sui piani che anche voi proponete c'è assolutamente però bisogno di continuità. Come la mettiamo con questo aspetto? La mettiamo che la continuità ovviamente di governo è il tema cardine. Devo dire che abbiamo una fortuna, che i tempi stanno cambiando, il sistema industriale, ma soprattutto anche la politica ha capito che ci sono dei temi trasversali, l'innovazione digitale, il cambiamento, temi che oggi sono imprescindibili da qualsiasi agenda politica o schieramento partitico. Questo credo sia anche forse un vantaggio che la nostra generazione ha, che le nuove generazioni, le start-up, e avranno a disposizione, proprio il fatto di avere comunque una continuità nelle tematiche. Ecco, io devo dire che questa rassegna ha visto proprio il fatto che le nostre proposte sono state accolte, ascoltate, integrate da tutte le parti politiche, dal governo, dalle istituzioni, dalle imprese, con diciamo un filo conduttore che voleva essere la continuità al di là delle singole idee, delle singole agende. Lorenzo, in queste ore il governo sta mettendo a punto un piano per nuove chiusure, per cercare di arginare i nuovi contagi che stanno arrivando e che stanno avendo dei numeri ancora una volta sempre più preoccupanti anche nel nostro paese. Chiaramente le vostre ricette sono ricette che andranno bene anche il domani, in cui il Covid sarà scomparso dal nostro radar, noi speriamo al più presto, ma in questo momento purtroppo non possiamo abbassare la guardia su questa emergenza. Voi come la vedete? Come sarà il tessuto economico produttivo quando il Covid ci darà tregua? Sarà un tessuto economico produttivo, e lo è già in parte, che avrà la totale consapevolezza della necessità di cambiare, di accelerare un cambiamento. La cosa più semplice da vedere in questi giorni è come lavorare a distanza, come ovviamente comunicare a distanza, riuscire a rimanere, a avere continuità nel lavoro anche senza la prossimità fisica, e sia indispensabile. Le tecnologie questo lo risolvono, ma si capirà anche come in realtà l'elaborazione del dato e l'inserimento, lo studio, l'inserimento dell'intelligenza artificiale, e molti dei nostri punti richiamano questo aspetto, aiuta tantissimo l'efficientamento e quindi al avere una supply chain, nel caso del food, più sostenibile, essere più attenti e avere coltivazioni, per esempio, mirate a seconda delle necessità, cioè quindi la tecnologia che aiuta l'uomo a efficientare quello che è il lavoro. E questo credo che in un momento in cui ci si può muovere meno, in un momento in cui le difficoltà ovviamente di mobilità dovute alla pandemia sono all'ordine del giorno, questo credo che sia la strada del futuro. Lorenzo, intanto complimenti per non aver mai pronunciato nel corso di tutta la conversazione la parola resilienza, abbiamo stabilito un record per una volta tanto. Un'ultima domanda, alla vostra manifestazione, lo dicevo prima, sono passati in rassegna numerosi personaggi, numerose personalità, c'era anche Nicola Zingaretti, il governatore della Regione Lazio, che ha detto: settimana prossima ci sarà il bando per portare la banda larghissima in tutte le case popolari della Regione Lazio. Un grande problema di questi mesi è stato proprio questo, il digital divide, cioè la differenziazione della copertura digitale sul nostro paese. Lo abbiamo visto anche per il mondo scolastico, quanto sia stato difficile per molte fasce sociali poter effettuare appunto la didattica a distanza. Cosa si può fare per migliorare le cose nel nostro paese da questo punto di vista? Beh, innanzitutto il Covid ha dato una grandissima accelerazione, quindi al di là dei singoli suggerimenti, io credo che il problema fondamentale dell'Italia sia proprio un problema di coordinamento e di fare sistema. Ecco, fare sistema lo dicono in tanti, poi non lo si fa, ma lo dicono in tantissimi. Il coordinamento invece è meno usata come parola, però è un grande problema italiano. Oggi bisogna coordinare le politiche regionali, governative, bisogna coordinare le piccole imprese o le partecipate statali, bisogna coordinare affinché ci siano dei piani precisi, ci sia un'unità di intenti e azioni. Troppe volte ci si perde in dibattiti su tavoli per la proprietà di azioni, per la proprietà di piani attuativi. Noi dobbiamo oggi smetterla di pensare di chi è la proprietà, la paternità o il merito di qualcosa, ma davvero lavorare togliendo gli eghi personali, gli eghi delle aziende e lavorando davvero su quello che su un coordinamento, seguendo appunto gli obiettivi che sono necessari per il paese. In 30 secondi, Lorenzo, farete il check-up delle vostre iniziative, cioè seguirete se verranno in qualche maniera implementate, attuate, cosa intendete fare per i prossimi mesi? Dopo questo tavolo di proposte lanciato oggi. In realtà il vero lavoro comincia da oggi in poi. Noi oggi abbiamo raccolto tutte le istanze da più di 500 realtà del nostro paese, le migliori potrei dire, e da oggi abbiamo sintetizzato in 10 macro punti, ma da oggi in poi cominceremo a lavorare su questi punti, sostanziandoli innanzitutto, avvalorandoli con date e ricerche e presentandoli ai ministeri che ci hanno aperto le loro porte. Adesso spetta a noi davvero far sì che questa non diventi semplicemente uno show, ma diventi una partita utile per il paese. Grazie a Lorenzo Maternini, Country Manager per l'Italia di Talent Garden, e buon lavoro, a presto. Grazie, a presto. E intanto, come vi dicevo poco fa, volevo darvi anche il dettaglio rispetto ai contagi regionali. Ribadiamo ancora una volta la statistica odierna, il dato in assoluto odierno, una crescita dei nuovi casi da coronavirus nelle ultime 24 ore, 10.010, una crescita di 1.206 unità rispetto a ieri, mentre i tamponi sono 12.000 rispetto a ieri in meno, 150.000. La regione con il maggior numero dei casi è la Lombardia, 2.419 nuovi contagi, seguita dalla Campania. Questo dato della Campania oggi era già noto perché diffuso dal governatore De Luca, 1.261 il Piemonte con 821 nuovi casi. Questo è il dato di oggi, adesso la pausa, poi andiamo in borsa e al tema bancario, che è stato un grande tema della settimana. Focus Economia. La seduta di borsa Milano chiude, archivia la giornata con un più 1,70%, recupera un po' dopo il forte calo di ieri che era stato del 2,7%, Parigi più 2%, Francoforte più 1,6%, Londra più 1,6%, Andrea Fontana, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera. Non ce l'abbiamo ancora, e allora comunque i temi del giorno adesso comincio ad anticiparveli. Eccola qua, Andrea, buonasera. Sì, buonasera. Sono partita a razzo come al solito. Allora, intanto c'è una notizia proprio degli ultimi istanti, riguarda Autostrade per l'Italia, il titolo peraltro è andato anche piuttosto bene oggi. Toto Holding e il fondo Apollo tornano a farsi sotto per l'acquisto della quota di Autostrade per l'Italia. In settimana abbiamo appreso appunto che il gruppo Atlantia tratta in semi-esclusiva con Cassa Depositi e Prestiti da altri fondi di investimento. Adesso abbiamo questo flash degli ultimi minuti. Allora, la giornata di Atlantia più 4,73%, tu avevi avuto altre indiscrezioni, non era tra i temi che ci eravamo preparati, ma insomma su questo tema siamo sempre un po', le stiamo sempre un po' dietro, insomma, questa società. Andrea. Sì, assolutamente. Il titolo poi è accelerato nel corso del pomeriggio sull'indiscrezione più di taglio politico, cioè sul fatto che ci sarebbe un appoggio più deciso del Movimento 5 Stelle, che come sappiamo in tutto dalla tragedia del Ponte Morandi a oggi ha sempre tenuto una posizione particolarmente rigida nei confronti di Atlante, della famiglia Benetton, e quindi delle conseguenze della tragedia per il gruppo Benetton, quindi un'indiscrezione che parlava invece di un supporto, di una posizione favorevole del Movimento 5 Stelle alla soluzione che si andava prospettando con la Cassa Depositi e Prestiti, e questo aveva contemporaneamente al recupero più forte dei mercati dati nella seconda parte del pomeriggio aveva portato a questa chiusura in forte rialzo di Atlantia, ma certamente le indiscrezioni che, come quella che tu hai citato, relative alle ulteriori cordate in preparazione per Autostrade per l'Italia, non fanno che aumentare la pile, soprattutto perché si va a vedere, il tema sarà quanto sarà valorizzata Autostrade per l'Italia, che Atlantia si appresta a cedere o completamente o in parte, ma appunto la valorizzazione di cui si parlava per Cassa Depositi e Prestiti era tra 10 e 11 miliardi, ma appunto la presenza di altri soggetti può far variare questo valore. Andrea, allora il tema, ti chiederei di lasciarmi fuori adesso per il prossimo aggiornamento il tema bancario, perché lo faccio tra un attimo con Marco Ferrando. Gli altri temi della giornata, mi pare che sia stato il lusso oggi a consentire questo parziale recupero delle borse europee dopo i dati di LVMH e di LVMH da Parigi. Sì, assolutamente questo fattore, questo dato un po' a sorpresa per quanto riguarda LVMH è stato alla base della buona performance un po' di tutto il settore lusso, in primis sul FTSE MIB, Moncler e anche Salvatore Ferragamo si è ben comportata. Ovviamente LVMH ha dato una trimestrale con dei ricavi in calo del 7%, vicino a 12 miliardi di euro, ma ci si aspettava una performance molto più penalizzante nel terzo trimestre, sempre ovviamente in confronto al terzo trimestre del 2019, soprattutto con dati positivi che sono arrivati dal settore abbigliamento e dalla pelletteria, che sono cresciuti in doppia cifra, laddove gli analisti si aspettavano qualcosa di più stabile. Quindi questo ha, diciamo, sorpreso le borse. A Milano ha avuto ovviamente i riscontri, a Parigi LVMH ha guadagnato quasi l'8%, il 7,7%. Il miglior titolo di Milano invece nel settore più o meno è stato Moncler, più 4%. Grazie Andrea, buona serata. Buona serata a voi. L'ultimo tema di questa prima parte. Allora, l'ho anticipato poco fa, saluto subito Marco Ferrando, capo della redazione. È caduto, ma niente, oggi va così, vi chiamo e cadono. Comunque introduco io l'argomento. È stata una settimana di deciso fermento per il settore bancario italiano, ancora una volta perché si susseguono le notizie su prossime operazioni di consolidamento del settore. Un po' perché sono necessarie, auspicate da tante autorità, un po' perché se ne è consumata un'importante quest'anno. Intesa ha conquistato UbiBanca e quindi adesso gli altri attori non possono rimanere indietro. Non so se hai sentito la premessa. Marco Ferrando, capo della redazione Finanza del Sole 24 Ore. Marco, buonasera. Buonasera a te, Deborah. Volevo proprio in 4 minuti fare il punto della situazione sulle notizie bancarie che sono emerse nella settimana. Intanto si sta completando l'aumento di capitale di BPerBanca, oggi più 8%, lunedì è l'ultimo giorno per negoziare i diritti di opzione sull'aumento e quindi questo titolo in questi ultimi giorni è andato sulle montagne russe. Deve prendersi tutte le filiali che Intesa deve cedere per finalizzare l'integrazione con UbiBanca, e questo è un tema. Ma gli altri grandi temi sono stati: A, Piercarlo Padoan arriva alla presidenza di Unicredit che potrebbe scorporare le attività estere, quotarle in borsa, quindi c'è qualcosa che bolle in pentola. E poi le operazioni di consolidamento. Cosa c'è di vero rispetto alla Banco BPM che sta dialogando con il Crédit Agricole? Insomma, il tutto per non prendersi Monte dei Paschi, mi pare di capire che tutte le stanno facendo pur di non prendersi la patata bollente del momento, è sempre il momento. Marco. Sì, è così, e sicuramente la sentenza di ieri che ha riguardato Profumo e Viola conferma che Siena rimane un posto diverso dagli altri, mettiamola così, e quindi con eredità di difficilissima gestione. Ma in settimana, come dicevi, uno degli eventi decisivi e comunque che è destinato a segnare le prossime puntate della telenovela è sicuramente la nomina di Piercarlo Padoan, è entrato in consiglio, è destinato a fare presidente di Unicredit. Ex ministro, entrato ovviamente da parlamentare del Partito Democratico, che aveva contribuito in maniera determinante a puntellare la situazione Montepaschi, quindi si ritiene che possa come dire, essere un pontiere tra Unicredit e il Tesoro, che sappiamo è in gestazione da mesi un decreto con cui dovrebbe accelerare la privatizzazione. Parlavi di Banco BPM e di Agricol, ancora rumors di questi dialoghi che come sappiamo sono in corso da tempo, Banco BPM, dopo l'operazione Intesa UBI che si è chiusa peraltro ieri con la nuova, con l'assemblea che ha, diciamo, definito ormai la nuova governance a trazione Intesa, ecco, Banco BPM è un po' la, diciamo, il baricentro del risico, in quanto è una banca che ha una forte presenza in territori importanti e quindi è una pedina che popolarizzare le prossime puntate. Non è strano che i francesi, gli agricoli che hanno già Cari Parma e altri pezzi importanti in Italia vogliano crescere ancora, anche se chiaramente si tratterebbe di far passare sotto il controllo francese un altro pezzo importante del nostro sistema creditizio. Quindi, insomma, siamo in una fase in cui, diciamo, questioni di bandiera non sono del tutto secondarie. È sicuramente vero che Castagna, che sta un po' insieme al presidente Tononi gestendo la situazione, stia parlando, ma l'impressione è che non sia l'unico fronte. L'altro può essere Unicredit oppure Viper, no? Che comunque con l'aumento di capitale di fatto in tasca è pronta ad aprire nuovi dossier. Col limite che un banco Viper non sarebbe risolutivo, sarebbe un passo avanti per entrambi, ma nella nuova geografia non sarebbe sicuramente lì. Quando tu dici se venisse portata avanti l'operazione Banco BPM e Credit Agricole, un'altra banca, un altro pezzetto del sistema finanziario italiano finirebbe in area francese, la precedente ti riferisci alla BNL BNP Paribas? Quello sicuramente. Poi in ambito creditizio abbiamo avuto, insomma, ormai sono passati 3 anni, ma non dimentichiamo Pioneer, che era la società di gestione risparmio, di credit, sì, che è finita ad Amundi. Tutte operazioni che hanno una logica finanziaria industriale, che di fatto non hanno creato al momento particolari scossoni, ma c'è chi, soprattutto in ambito politico, valuta, come dire, monitora strettamente queste dinamiche, quindi il dialogo tra Milano e Parigi non è, come dire, non dà la certezza che si arrivi da qualche parte. L'impressione, appunto, che Milano stia tenendosi aperta a più possibilità e che forse l'Agricole non sia la prima scelta. Certo. Marco, io ti ringrazio, devo salutarti. Noi quello che speriamo è che se queste operazioni andassero avanti, oltre ad avere chiaramente una logica industriale e a creare valore in questo senso, portino anche dei benefici al sistema economico, produttivo, industriale, tra i consumatori e risparmiatori, appunto, dei paesi nei quali poi queste banche operano, perché oggi ne abbiamo bisogno. Con la crisi che sta determinando il Covid, abbiamo bisogno di banche sì forti dal punto di vista industriale, di dimensioni, ma anche di banche efficienti e pronte a sostenere il territorio. Ci fermiamo, il giornale radio, torniamo subito dopo. E quello è uno. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Manager. Il dottor Barbieri? Ma assumi in questo periodo. Come? Comark. Non è assunto, è un temporary export specialist Comark. Sta già portando più vendite, anche in Italia. Con queste incertezze sulle fiere servirebbe anche a me una strategia per trovare nuovi clienti, per l'export, sui canali digitali. In Comark sono stati i primi a sviluppare metodi e tecnologie per creare nuovi mercati, canali, clienti. Vai su vendinelmondo.it. Comark, competenze internazionali a supporto del tuo business. Vendinelmondo.it. Manutenzione auto con prezzi da Neurodeliri? Scegli ricambi Eurorepar, circa il 30% in meno degli originali, ma equivalenti agli originali e con 2 anni di garanzia dai riparatori Eurorepar Car Service. Scopri di più su eurorepar.it. Per i nostri biscotti, fatti come una volta, noi della Doemi scegliamo ingredienti italiani come lo zucchero Italia Zuccheri, perché crediamo nella sostenibilità e scegliamo partner che, come noi, rispettano l'ambiente. Italia Zuccheri è una buona scelta, perché è l'unico zucchero 100% italiano. Seminato, raccolto e lavorato con cura da migliaia di agricoltori, con una filiera corta, sostenibile e tutta italiana. Italia Zuccheri. Coltivatori con cura. Da MediaWorld Smart TV Samsung 50 pollici 4K a soli 379 euro. Fino al 21 ottobre, prezzi imperdibili su notebook, smartphone, TV e tablet con un'alta definizione da paura, anche a tasso zero. Media World, fatto apposta per me. Messaggio pubblicitario, informazioni negozio, salvo approvazione della finanziaria. Problemi di capelli? Grazie agli esperti di Istituto Elvetico Sanders hai l'opportunità di effettuare il test genetico per la predisposizione alla calvizie. Trattamenti specifici. Il trapianto capelli con tecnica FUE e DHI. Siamo in tutta Italia. Istituto Elvetico Sanders. Chiama subito e prenota la tua analisi gratuita. Numero verde 800 28 3838. Chiama subito. Istituto Elvetico Sanders. Da sempre alleati dei tuoi capelli. Per trapianto autorizzazione regionale Umbria 13388-18. Direttore sanitario dottor Mazzeo. Gli attacchi informatici possono nuocere gravemente alle imprese. Scopri il tuo livello di sicurezza. Richiedi una valutazione immediata sul sito sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Ci ritrovati in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Ancora una buona serata a tutti da Deborah Rosciani. Parliamo adesso di donne. Perché ne parliamo? Perché gli atteggiamenti e i comportamenti delle donne possono aver contribuito alla loro minor vulnerabilità e mortalità in questo periodo così complicato. Un'indagine condotta in 8 paesi OCSE mostra che considerano infatti le donne, l'universo femminile, il coronavirus un problema più grave degli uomini, sono più inclini quindi ad approvare le politiche sanitarie e infrangono di meno le regole. Allora, ci sono due ricercatori della Bocconi che ci raccontano adesso un po' meglio questa indagine per capirne il significato, che cosa c'è di più dietro a questi iniziali passaggi appunto che abbiamo indicato. Noi però, tra l'altro, vi voglio anche spiegare il motivo per cui ci teniamo a parlarne questa sera, intanto perché, come sapete, anche un paio di giorni fa, anzi no, non un paio di giorni fa, proprio ieri, il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato appunto all'incontro con le vincitrici della 32esima edizione del premio della Fondazione Marisa Bellisario e ha detto: è paradossale che un paese del G7 abbia una condizione di occupazione femminile inspiegabilmente e impresentabilmente così bassa rispetto agli altri paesi avanzati. Noi abbiamo un'occupazione femminile al 48,9%, credo che in Europa la percentuale sia oltre il 62%. È un problema, ha detto Mattarella, che incide su tutto, sull'aspetto sociale, sulla mentalità, sul mondo del lavoro, sulle risorse di cui si dispone e che non vengono utilizzate adeguatamente. Un problema che incide sulla demografia del nostro paese, perché una maggiore occupazione femminile consentirebbe di far fronte con più efficacia al calo demografico. Insomma, tantissimi gli aspetti da considerare. Allora io saluto intanto e ringrazio per essere con noi il professor Vincenzo Galasso, professore ordinario dell'Università Bocconi di Milano. Buonasera professore. Buonasera. Allora, ci dà qualche dettaglio in più rispetto a questa indagine, che non è italiana, appunto, è internazionale. 21.649 intervistati in Australia, Austria, Francia, Germania, Italia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Un'indagine, peraltro, ho letto qualcosa anche sul metodo con cui è stata condotta, condotta in due ondate, quindi si utilizza anche il termine che in qualche maniera richiama alla pandemia. Cosa ci racconta questa indagine su come le donne hanno approcciato a questo gravissimo problema che abbiamo affrontato tutti in questi mesi? Ma partiamo col dire che le donne sono state più brave, probabilmente si sono spaventate di più, questo è quello che risulta dalla nostra indagine, che hanno preso più seriamente le conseguenze economiche che appunto Covid poteva avere per la salute. Questo ha fatto sì che fossero anche più d'accordo con tutta una serie di misure che sono state prese nei diversi paesi e anche, forse la cosa più importante del nostro studio, che sono state più ligie a seguire tutte quelle regole di salute pubblica che oggi andiamo di nuovo predicando, cioè tossire nel gomito, mettere la mascherina e così via. Quindi questo è stato, diciamo, questo è il quadro che emerge, ed è un quadro che emerge per la verità ovunque. Noi abbiamo visto i dati sia singolarmente per gli 8 paesi, sia li abbiamo messi tutti insieme, sia li abbiamo guardati nella prima, appunto, la prima ondata, nella prima questionario che abbiamo fatto, che era verso fine marzo. Quindi, diciamo, in Italia eravamo più o meno alla terza settimana di lockdown, negli altri paesi invece eravamo in momenti diversi, e poi abbiamo rifatto un altro questionario verso fine aprile, metà fine aprile, E quello che risulta abbastanza sorprendente per certi versi è che questa differenza di genere c'è sempre e ovunque. Cioè abbiamo trovato lo stesso effetto in tutti i paesi, sia a marzo sia ad aprile. Certo, quindi anche quando raccontiamo di tutte quelle economie dove pare appunto che l'universo femminile abbia come dire, proprio un'emancipazione diversa anche rispetto al mercato del lavoro, in realtà poi se andiamo a guardare insomma tutto il mondo è paese, come si dice. Peraltro la minore propensione al rischio è un tema anche molto attuale per quello che riguarda le attitudini all'investimento e al risparmio della donna italiana, perché come dire, sappiamo che anche in questo mondo ha un approccio molto più prudente e conservativo, quindi diciamo che questa caratteristica, questa qualità della donna chiara ed evidente in questa fase pandemica in realtà è netta in tanti altri ambiti che possono essere oggetto di indagine. Professor Galasso, non so se voi avete anche altre evidenze. Ah, sicuramente sappiamo da tanti studi, tra cui anche studi di laboratorio, che le donne sono più avverse al rischio degli uomini. Però in realtà in questo studio noi abbiamo controllato per questa diversità di avversione al rischio, perché avevamo una domanda che ci consentiva di capire qual era l'avversione al rischio delle donne. E pur controllando per la diversa avversione al rischio, troviamo che questa differenza di genere c'è anche dopo. Quindi è qualcosa in più dell'avversione al rischio quella che noi stiamo trovando in questo caso. E l'altra cosa che noi possiamo controllare e facciamo nello studio è per esempio la percezione personale di poter essere infetti o infettati dal coronavirus, per esempio per motivi personali, perché sappiamo che le donne lavorano di più nel settore dell'istruzione o della sanità. Quindi anche controllando per queste due caratteristiche che potrebbero rendere le donne appunto più spaventate per certi versi, quindi anche più ligio tutto a seguire queste regole, ecco, noi troviamo che anche dopo aver controllato per questi effetti le donne continuano ad essere più ligie. Una considerazione che si potrebbe fare è che in realtà si tratta di una questione quasi di altruismo, perché proteggere se stessi in una pandemia non vuol dire solo proteggere se stessi, ma vuol dire anche proteggere gli altri. E quindi c'è questa componente che potrebbe essere uno dei motivi che portano le donne ad essere appunto più ligie a seguire le misure di sicurezza. Certo, professore, voglio essere anche un po' maliziosa. Sappiamo quanto sia costata la pandemia alle donne. Noi qui a Radio 24 proprio qualche giorno fa abbiamo raccontato dell'ennesima ricerca, un'indagine dell'INAP, l'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, che ci ha, peraltro è un'indagine non ancora completata, ce l'hanno presentata in anteprima nei passaggi più rilevanti. E allora ancora una volta questa ricerca ha raccontato come l'aumento del carico di lavoro e di cura sia stato fortissimo per le donne che hanno dovuto accettare ovviamente di lavorare in smart working, si sono fatte carico di tutto il lavoro appunto casalingo, come sappiamo, della cura dei bambini che dovevano studiare con la didattica a distanza, insomma sono cose che abbiamo straraccontato in questo periodo. Quindi mi viene da pensare che sono molto più prudenti anche nell'approccio al problema sanitario e molto più attente, forse perché non vogliono ripetere questa esperienza che per molte di loro è stata durissima. Quindi se ci curiamo tutti della nostra qualità della vita in questo momento, magari questa emergenza la superiamo un po' prima, ritorniamo anche a lavorare quelle che se lo possono permettere. Lei ce lo vede questo aspetto un po' malizioso? Io quello che vedo è che sicuramente le donne hanno sofferto di più, nel senso noi abbiamo delle domande che anche sono legate al costo psicologico per le donne, e quello che riscontriamo è che in realtà le donne e i giovani hanno sofferto di più per rimanere in casa, si sono sentite più isolate, hanno perso di più hanno perso il sonno e così via. Quindi tutta una serie di cose sicuramente, anche al di là di quello che è il discorso sul mercato del lavoro che lei stava facendo, anche da una questione esclusivamente psicologica si vede questa differenza, e quindi probabilmente potrebbe essere un'altra componente che spiega perché le donne hanno cercato di evitare, o forse cerchino di evitare, sia per motivi lavorativi che per motivi familiari che altro, di contrarre il virus. Ecco, un altro aspetto forse interessante che troviamo nella ricerca è che in realtà ci sono solo due cose che avvicinano i comportamenti di uomini e donne, e queste due cose sono l'essere sposati, cioè gli uomini sposati tendono a comportarsi meglio, quindi un po' più come le donne, e gli uomini tendono a comportarsi meglio quando hanno visto da vicino, hanno conosciuto qualcuno che è stato appunto infettato dal coronavirus. Esatto, quindi il contagio, la moglie o il aver visto qualcuno che effettivamente era in difficoltà è quello che convince un po' gli uomini a essere un po' più compliant, un certo. po' più bravi. Concludo con una annotazione arrivata anche in questo caso proprio oggi. Noi sappiamo che questo tema del divario di genere, di quanto sarebbe importante che le donne partecipassero di più al mercato del lavoro, conquisteremo quote di PIL importantissimo. Si dice che, appunto lo dicevamo prima riportando la frase di Mattarella, l'occupazione femminile in Italia è al 48,9%, la media europea è intorno al 62%. Se in Italia ci riuscissimo ad avvicinare un po' di più alla media europea, potremmo creare qualcosa come 88 miliardi l'anno di euro, appunto, di PIL, quindi una ricchezza immensa. Poi chiaramente bisognerebbe valutare bene come si fanno questi calcoli. L'ultima nota che metto è la dichiarazione che ha fatto oggi la sottosegretaria al Ministero dell'Economia Maria Cecilia Guerra. Nella premessa al bilancio di genere del Ministero dell'Economia ha detto: è possibile ridurre il divario di genere senza aumentare le spese di bilancio dello Stato. Le spese di bilancio dello Stato mirate a ridurre di diseguaglianze di genere sono stimate nell'ordine dello 0,3% del totale e si sono concentrate in pochi ambiti. Esiste però un'area rilevante del bilancio, pari al 16,5% delle spese, che potrebbero avere effetti indiretti, in cui si possono produrre effetti positivi sulla riduzione delle diseguaglianze. Insomma, una frase un po' complessa per dire che in ogni caso è entrato forte questo tema, professor Galasso, la lascio concludere, anche nel senso del palazzo, finalmente, ufficialmente, anche cioè in questa fase di crisi, paradossalmente, forse possiamo ridare un ulteriore slancio a questo tema che mi pare di capire ne abbia particolarmente bisogno. Ma direi di sì, noi sicuramente diciamo, la fase di crisi legata al coronavirus ha aperto tantissime diseguaglianze, quella di genere è una e lei lo ha spiegato molto bene, ce ne sono anche tante altre, perché chiaramente diciamo, la sofferenza economica che c'è stata non è stata sopportata in maniera uguale da tutte le persone. Esatto. Sempre con questo studio noi vediamo per esempio che c'è una differenza enorme tra laureati e non laureati, tra i cosiddetti colletti bianchi e colletti blu e così via. Quindi sicuramente diciamo, questi divari si sono aperti e bisognerà comunque provare a fare qualcosa per chiudere o richiudere, esatto. Comunque provare uguaglianza. Come quello digitale che abbiamo citato in un altro passaggio della nostra trasmissione all'inizio. Professor Galasso, grazie per essere stato con noi, complimenti per questo lavoro. E condotto insieme alla professoressa Paola Profeta, ci fermiamo, il traffico tra poco. Focus Economia. Allora, adesso 7 minuti di tempo tutti interamente dedicati al nostro Dino Pesole, il Sole 24 Ore. Dino, buonasera. Buonasera Debora, eccomi, grazie. Allora, siamo alla vigilia di un delicato Consiglio dei Ministri che dovrà cercare di trovare la quadra attorno alla prossima manovra di bilancio. Domani mattina alle 10 dovrebbe esserci il terzo vertice di maggioranza della settimana per trovare l'accordo sui contenuti, in modo che poi l'impianto generale possa approdare in Consiglio dei Ministri. Sono ore però delicate perché il governo sta valutando anche quali altre misure di contenimento, restrizione, attenzione devono essere messi in campo nel nostro paese per limitare i contagi arginati. Oggi lo abbiamo detto, altri 10.000. Allora Dino, come si sta vivendo questa vigilia? Quali sono i contenuti sul piatto fino a questo momento? Beh, allora, prima di tutto il governo deve presentare il documento programmatico di bilancio, che è un passaggio successivo a quello già attuato con le linee guida del recovery plan e sostanzialmente in questo testo dovrà un po' definire quali sono le grandi linee della manovra. Contestualmente, ma sicuramente ci sarà da aspettare qualche giorno in più per avere poi il testo definitivo, verrà varata la manovra di bilancio. La sospensione cui fai cenno te è reale, nel senso che è evidente che se il governo deve mettere mano, come sembra, a nuovi provvedimenti di urgenza e quindi varare un quarto decreto, perché finora da marzo ne sono stati varati 3, lo ricordo, per un ricorso a maggior deficit di circa 100 miliardi. È evidente che questo comporterà un supplemento di istruttoria. La manovra di per sé... Tutti e tre sono il Cura Italia, il rilancio di maggio e il decreto agosto? Esattamente, per 100 miliardi di deficit. Adesso si sta ipotizzando un nuovo decreto, ma non è ancora chiarissimo se ci sarà un provvedimento ad hoc, io immagino di sì, e comunque nel frattempo bisogna costruire la griglia della manovra di bilancio, che è quella che vale per il 2021. Allora, quello che si sa al momento è che la manovra dovrebbe aggirarsi attorno ai 40 miliardi, 23 miliardi dei quali dovrebbero essere recuperati in deficit attraverso un accordo che è stato raggiunto sostanzialmente con la Commissione europea e che riguarda lo scarto tra il deficit che si avrebbe senza fare nulla e quello che è programmato, e dunque si sconta un effetto della manovra sul PIL, e questo come dire, è un obiettivo, speriamo che si realizzi. Dopodiché si sta facendo l'elenco di quelle che sono le spese indifferibili, ci sono le missioni di pace, c'è il finanziamento dei contratti del pubblico impiego, poi ci sono almeno altri 10 miliardi di spese che vengono ritenute essenziali, e tra queste è evidente che in primissimo piano c'è il rifinanziamento per gli ammortizzatori sociali, gli incentivi all'auto. E poi c'è tutta la partita. C'è anche una parte dedicata al famoso assegno unico per i figli che dovrebbe partire l'anno prossimo. Infatti, esattamente, per questo si sta immaginando uno stanziamento. Però ecco, non è ancora chiaro se partirà, non credo che partirà dal 1 gennaio, probabilmente lo si farà partire a giugno-luglio, ed è un anticipo della riforma fiscale. Poi sanità, scuola, spese dei ministeri, c'è la giustizia, poi c'è la decontribuzione per i neoassunti per altri complessivi 10 miliardi. E quindi questo è un po' il menù di massima, ma insieme a questo è evidente che bisogna cominciare a presentare una griglia di misure, di interventi, che poi il governo dovrà perfezionare entro gennaio, ammesso, e qui c'è un grande punto interrogativo, che da Bruxelles arrivi qualche segnale di chiarimento, perché in realtà ancora mi sembra che siamo di fronte a una sostanziale impasse per sbloccare i 750 miliardi complessivi del Recovery Fund. Noi ne abbiamo 209, però se non interviene un accordo a questo punto deve essere in tempi molto rapidi, perché sennò immagino che molto difficilmente la prima tranche, che noi abbiamo calcolato in circa 20 miliardi, cioè il 10%, possa arrivare per la prossima primavera, probabilmente potrebbe anche slittare, e questo non sarebbe una buona notizia, perché comunque sono fondi fondamentali per far crescere il PIL. Certo. Una notazione volevo farla, Dino, sul tema del turismo, perché mi pare che il governo abbia allo studio anche degli interventi a sostegno di questo settore, che dire che è stato duramente colpito dalla crisi è proprio dirla alla leggera, perché letteralmente in ginocchio, parliamoci chiaramente, ha recuperato un pochino grazie ai movimenti domestici solo in estate, ma davvero qua la prospettiva è fosca. Qua, magari per concludere, appunto, abbiamo un minuto di tempo prima dei saluti, con un messaggio, se possibile, positivo per gli operatori del settore, cosa c'è in ballo? Assolutamente sì, c'è una voce che si prevede di intervenire sul fronte del turismo con una serie di incentivi che dovrebbero trovare posto nella legge di bilancio e comunque essere agganciati, per questo dicevo che c'è un'urgenza che da Bruxelles arrivi una risposta. Assolutamente in tempi brevi, dovrebbero essere agganciati al tema appunto del Recovery Fund, perché lì le priorità saranno certamente quelle della sostenibilità ambientale, l'efficientamento energetico, l'economia circolare, però poi ci sarà anche la digitalizzazione. Poi però c'è tutto un settore che riguarda l'economia reale con gli impatti sul sociale, perché qui è evidente che stiamo parlando di un settore che ha un ruolo fondamentale, e un ruolo fondamentale anche di spinta al PIL, perché se il governo prevede che grazie alla manovra si farà uno 0,9 in più di PIL, assolutamente dovrà prevedere un sostegno molto ingente per quanto riguarda il turismo. Io so che c'è assolutamente un capitolo, non so ancora quantificarlo, ma probabilmente ancora non è stato quantificato. Ma ci sarà, nei prossimi giorni lo vedremo. Lo sapremo senz'altro. Dino, grazie per essere stato con noi, buona serata e buon weekend. Grazie e buona serata. Grazie a Danilo Di Trani e Valeria Bernardi per l'assistenza questa sera alla conduzione della trasmissione. Da Deborah Rosciani, un buon fine settimana a tutti. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso! Su aruba.it